dovreste sentirvi felici come bambini, che quando hanno un pallone caschi il mondo, loro hanno il pallone. Ecco, noi cascassi il mondo ci troveremmo a giocare nel misterioso regno di Dio, con Dio stesso. È stato Lui che ha messo nel nostro cuore di bambini il desiderio dei giocattoli, e si farà giocattolo Lui per noi, come quando è venuto qui sulla terra. Cambia l'acqua in vino per gli sposi novelli, cambia la lebbra in salute perfetta nei lebbrosi che incontra, cambia le occhiaie spente dei ciechi in occhi limpidi, freschi, scioglie la lingua ai muti, calma le acque del lago o mare di Genezaret, moltiplica il pane e il pesce e che se ne avanzino degli zaini, delle borse. Non è venuto forse a far stare allegri? In quei paesi dove passava la sera al tramonto del sole, li guariva tutti gli ammalati che accettavano di essere portati alla sua presenza. Dio si farà giocattolo. Noi giocheremo con Dio. Adesso i ragazzi basta un pallone, qualsiasi. Ho visto a Luxor in Africa dei ragazzi giocare al pallone in un cortile tutto sabbia, tutto polvere. Erano stracci legati insieme da uno spago. Ma che allegria quei ragazzi con quel misero pallone. Dio è il nostro gioco. Quando siamo contenti dentro di noi è perché Dio gioca con noi. Quando io vedo uno triste, dico quello lì, non sta giocando con Dio, ma è preso per il collo da Satana. Quello è tutto disperazione. Lui che ha rifiutato di giocare con Dio, adesso si trova nella peggiore disperazione. Giochiamo con Dio. Servite il Signore nella gioia. Giocate con Dio. Ho sentito tutto quel fracasso nello stadio olimpico a Roma, i mondiali, quel chiasso che si sentiva per tutta la città. E dopo sono passato, un giorno o due dopo, un silenzio da deserto. Come sono i giochi di questo mondo, anche se l'Italia ha speso capitali. Che silenzio dopo quelle partite, fugacemente scappate, fuggite, partite proprio. Dio quando gioca con noi non finisce mai. In Dio non c'è nulla che finisce, tutto dura in eterno. La sua amicizia, i suoi abbracci, le sue carezze, le sue partite non partono mai, durano sempre. Il gioco è chiamato partita perché si parte. Dopo aver giocato un'ora, tre, sette, basta, parti, partita finita, partita. Il gioco è partito, finito. Dio, in Dio non ci sono partite. Dio è sempre il gioco della nostra vita presente e il gioco della vita futura sarà proprio Lui. Noi ci alleniamo adesso come quelli che hanno fatto quei giochi olimpici, i mondiali. Quanto allenamento per una partita durata un'ora e mezza, due ore. Ecco, noi siamo qui che ci alleniamo. E questi anni sembrano lunghi, no, a confronto quel che verrà dopo, sono niente. Un po' di fatica, un po' di sacrificio, un po' di buona volontà, tutto allenamento, perché giochiamo così, in preparazione di un gioco eterno, quello stesso di Dio. Là troveremo anche Valentino, perché certamente Valentino la prima notte si è trovato accolto nel regno di Dio. Poco dopo di lui, la sua vecchietta. Non ci mancherà nulla di ciò che di buono qui sulla terra abbiamo gustato. Tutto sarà gustato, tutto quello che è bello, che è buono, che è nobile, che è divino, ma elevato ad un livello che noi non possiamo nemmeno concepire. E guardando indietro diremmo, cosa ho fatto sulla terra? A confronto di quello che sto facendo e godendo ora nel regno dei cieli. Facciamo in modo di arrivare a quel valico col cuore contento, con la cravatta. Vuol dire ben vestito, di grazia, di gioia spirituale, di meriti per la vita eterna, pieno di grazia, pieno di pace e di gioia, così che il gioco possa riprendere, moltiplicato all'infinito, nel gaudio di Dio.